attention please, your attention please, channel 10. Quiz. E beh, Buzzumine. Come t'annamo, zo? Come dice? Come t'annamo, zo? Uno vago in pulma, zo, in bicicletta, zo. E allora, Natalì, adesso sei entrato. No, c'ero da poco fa, ma ho sentito dei bip, però non mi hanno risposto quando ho chiamato io. Boh. E io lo stesso acceso adesso. Ho sentito, ero nell'altra stanza, ho sentito anch'io bip, per quello che ho fatto la chiamata. A te non ti avevo sentito, perché era anche bassa bassa la radio. E se c'è qualcuno già entrerà più tardi. Ero fuori, sta facendo una bella rietta fresca fresca e da stamattina quando sono uscito a Luna ad Alghero all'aeroporto segnava 22 gradi la macchina. Adesso sta abbassando forte la temperatura. Stasera però ho visto che si è annuvolato e c'è arietta bella bella fresca. Ogni volta che succede così a noi si blocca l'impianto di riscaldamento, siamo al freddo stasera, dai. Freddo per modo di dire, perché non è che c'è freddo dentro casa, c'è già il cappotto termico da noi nell'appartamento nostro, quindi freddo freddo non ne abbiamo, però la sera un po' era piacevole, lo stavamo accendendo dalle 4:30 sino alle 9:30, poi ti rimane caldo sino a tardi, capito? 4 ore, 4 ore e mezza lo stavamo accendendo, non di più. Ma cosa vuoi che ti dica? Non c'è, abbassare il televisore però, che si sente, se non lo stai usando cosa lo tieni acceso a fare? E comunque già ho chiamato già l'amministratore, ha detto che avvisava il manutentore, speriamo che lo mandi subito, perché ho dato un'occhiata e c'è una spia accesa nella caldaia proprio, penso sia un problema del bruciatore, perché qualche giorno fa hanno portato il gasolio, sicuramente o ha pescato aria oppure un po' di sporcizia ed è da spurgare, ma se lo fa il manutentore, anche perché c'è da sporcarti col gasolio, loro sanno come fare, veloci, e io non mi metto a pulire niente, capito? No, se c'è da fare lo spurgo è meglio lo faccia lui. Sì, sicuramente qualcosa del genere, non credo sia roba di danno, perché ho visto che il timer è partito regolarmente come era impostato, è partita la pompa che sta girando, quindi sta mandando acqua fredda solo, quindi la pompa smetterà di girare alle 9:30, capito? E l'ho lasciato così in maniera tale che se dovesse venire almeno si rende conto che tutto il resto sta funzionando e solo il bruciatore che non è partito. Metti fuochi mobili. Dimmi all'altro. Oiaia. Te l'immagina questo compugno, te l'immagini Carlo? E allora Antonello? Allora, per scaldarsi basta mettere fuochi mobili, non c'è problema, in casa, a odia che ti scaldi. No, guarda che da noi già si sta bene, non è che si abbassa così, in un giorno che non accendi, già diciamo l'appartamento è abbastanza caldo, hanno fatto già il cappotto termico da noi, non hanno ancora cambiato gli infissi, però già si sente che non c'è il gelo come prima, capito? Per cui se non parte oggi non succede niente, non è una mezzo disgrazia, ci risparmiamo un giorno di gasolio. Ah beh, quello sì, è vero. E beh, Natali. E bene, a chi ce li ha, se li hanno divisi e non mi è toccato nulla a me, ci hanno beccato tutti gli altri. E uia, bene bene, cosa hai? Domani mi tocca andare al geometra per la successione. Va vedimmo quanto mi tocca. Il primo che tocca tutta a te è la cnuda. Sì, devo pagare, non hai capito niente, devo pagare da parte mia, poi perché da 5 anni che non facciamo niente, se vediamo un po' cosa, se c'è la rottamazione, paghiamo poco, sono tranquillo. Come mai Antonio questa successione? Perché mamma quando non aveva fatto testamento, quando è morta non aveva fatto nulla, capito? E quindi da 2015 adesso, siamo 2023, adesso vediamo un po', ci vuole per forza la successione, capito? Eh beh, certo, se aveva qualcosa di intestato, mobili, ma anche se aveva un esempio dei risparmi in banca, non te li fanno toccare se non presenti la successione, cioè la banca ti rilascia il saldo per uso successione, tu quel saldo lo devi riportare nella successione e poi devi inserire beni mobili tipo l'appartamento, un terreno, tutto quello che c'ha, e poi in base a quello pagare. Però solitamente si fa entro 6 mesi dalla morte, poi ci saranno delle penali da pagare, però lì bisogna chiedere all'Agenzia delle Entrate, capito? Lì o ci va all'Agenzia delle Entrate a dire avremmo dovuto fare la successione di mia madre quando è morta e volevamo sapere se si può fare adesso e cosa ci costa, capito? Poi in base a quello che ti dicono tu dici a tutti gli altri aventi diritto c'è da pagare questo, e poi la successione da fare ci vuole un attimo a farla, no? Non è complicato, ti fai dare i moduli all'Agenzia delle Entrate, li compili con tutti i dati anagrafici della persona deceduta, devi fare la scaletta del ramo familiare, capito? Inserire i dati dei diretti, diciamo, eredi e basta, e poi la presenti là all'ufficio e ti dicono paghi tutto quanto là. Ho capito. No, a noi ci hanno detto che dobbiamo andare da un geometra stamattina al CAF, quindi mi dicevo di andare da un geometra e fare tutto il geometra e poi andate all'ufficio delle entrate, mi ha detto. Lo so, io lo so quante ne ho fatte successioni, ne avrò fatte a centinaia, capito? Non ci vuole granché. Forse magari ti servirà un certificato catastale se aveva immobili, per mettere gli estremi dei dati catastali e quelle cose lì. Certo, il geometra quelle cose se le fa, se le scarica lui direttamente, perché se un geometra è iscritto all'albo accede direttamente all'Agenzia del Territorio dove ci sono tutti i dati catastali delle proprietà e poi gli dai i dati delle persone interessate alla successione, se lo fa in poco tempo. Chiedi sempre in preventivo però, e gli chiede preventivo domani, vediamo un pochettino, vedere. Perché non dovrebbe essere tanto il compenso del geometra, perché è una pratica che loro fanno tranquillamente, non è che ci vuole che sia complicata. Più che altro cerca di sapere quanto è che dovrete pagare, anche per, diciamo, averla fatta fuori dal tempo limite, capito? Li fanno pagare la multa, li fanno pagare. Infatti quello che lo dimenti. C'è anche la rottamazione delle cartelle esattoriali sino ad aprile, ho controllato ieri su internet, quindi l'ufficio delle entrate sino ad aprile c'è la rottamazione delle cartelle esattoriali, quindi si paga un po' di meno. Ok, ma vi hanno mandato qualcosa all'Agenzia delle Entrate per questa successione non fatta? Allora sì. No, non ci hanno mai mandato niente, né a me né a mia sorella, non mi è arrivato nulla a me. Stavo facendo per la questione del cappotto qua, capito? Devono fare il lavoro che è stato fatto a palazzo tuo, sale uguale, il 110%, capito? Quindi ci vuole tutti i dati il capodomino mi ha chiesto la successione. Dobbiamo farla entro marzo. Ho capito, no, non ci vuole molto, no? Cioè il geometra prepara tutta la pratica, quei documenti, pochi documenti che ci vogliono, ci vorrà un certificato catastale e se lo procura lui quello. Tu gli devi dare solo i dati anagrafici degli eredi, capito, della persona deceduta, il certificato di morte si deve allegare, ma si fa tutto online queste cose, perché ormai anche al comune se sei registrato oppure ti registri fai tutto online, oppure ti tocca andare alla circoscrizione e chiedere il certificato di morte, capito, e poi i parenti, e il geometra ti fa tutto penso nel giro di una settimana, massimo 10 giorni ti fa tutta la successione. E cappa, no, già dobbiamo andare, già ce l'abbiamo tutti, i dati ce li abbiamo tutti, ho preso la fotocopia della carta d'identità mia, codice fiscale e basta, come adesso c'è tutto Giovanna. Vabbè, dai, anche quello andava fatto, lo farai in seguito, però ti serve comunque, perché è meglio definire queste cose prima, poi succedono pasticci perché magari vengono a mancare anche altre persone, subentrano altre ed è un casino, quindi prima le mettete a posto è meglio, eh. Ok, bene, me Antonello, era da un bel po' di tempo che non ti sentivo in radio, con Natalino in frequenza ci sentiamo ogni tanto, ma a te era da parecchio che non ti sentivo, dai, ben risentito. Capo, perché più che altro facendo visite mediche e basta. Allora vediamo un po', perché io ho anche queste visite mediche da fare, c'è ho fatto di tutto, mi manca solo altre cose, tre visite mi tocca fare, ma so che quando vai al PUC è un casino, non c'è niente ancora, capito? O andare allo zio, o andare a casino, quindi no, detto, no, sono andato a fare il Ranghiero, niente lo zio. Poi lasciamo perdere il PUC, ne stavo sentendo l'altro giorno gente che la prenotano dopo un anno anche per malattie oncologiche, adesso infatti non so quale assessore alla regione ha proposto di creare un PUC a parte, un centro di prenotazione per chi è malato oncologico, capito? Perché in effetti sono malattie gravi, devi intervenire subito con le visite specialistiche, non è che gli puoi fare la trafila di tutte le altre persone che devono fare magari un RX toracico per controllare insomma se tutto è a posto. Quelle sono malattie dove devi prima intervieni e prima è meglio, è, capito? Già lo so, è un casino, perché devo aspettare un sacco di tempo per fare c'ho la visita a giugno da fare, figurati, le altre due sono andato la settimana scorsa, non c'è nessun posto libero, adesso ci vado a fare 10 giorni, vediamo un po', lì a Lina, vediamo se trovo qualcosa. Ho detto o Alghero o Sassaretto, due sono le cose. Alghero intanto ha detto solo con come andarci. Prendo il treno o prendo il pullman e scendo lì e lì vicino c'è come si chiama? Tipo Inam, però è molto, molto meglio dell'Inam, la verità. Io ho avuto culo, ho telefonato che ne avevo una agosto prenotata al Ghero e invece la faccio a Platamona il giorno 2 marzo. Cosa devi fare a Platamona, Tati, che non ho capito? Un'ecografia alla tiroide. Ah, tu devi fare l'ecografia, no, io devo fare, come si chiama, l'ecodoppler al collo, capito? E le placche. E la chissà che devo fare io, Prova a telefonare ogni tanto a vedere se te la spostano, come hanno fatto a me. Gli devi dire che ce l'hai prenotata per tale giorno, se per favore se c'è qualche posto libero. Deve essere liberato, qualche posto la devo fare a Platamona io, il giorno 2 marzo, se no ce la dovevo fare il 21 agosto ad Alghero. Ah, ho capito. Vabbè, certo, quindi, questi giorni di telefono, ma dovete mettere a Lina, me lo faccio prima, ci bisogna manco di telefonare, perché c'è il PUC a Lina, ma c'è, basta che vai lì la mattina, veloce proprio. E fai così, io giù telefonato e non mi so che muovito dai nomi. No, sono andato direttamente al Dinamo, lì alle 9:30. Neanche sapevo che c'era il pubblico, capito? Me l'ha detto. Mi ha detto qualcuno, mi ha detto c'è vada all'Inam, ci faccio all'Inam, ha detto se perché c'è PUC lì, mi ha detto. Allora sono andato e sto facendo la documentazione direttamente lì. Anda bene Meda, se no fai 15:33 e ti risponde il PUC. E poi se faccio 15:15 mi rispondono i così chi ha. La guardia consiglia. E fai il numero che ti baretti gli altri. Cosa vuoi ti dica? Giusto Carlo? È importante dare sempre i numeri, dai. E va bene, dai. Ma per te Natalia è andata bene, perché il 2 marzo è dietro l'angolo. Lui se deve andare a giugno, non è così distante, neanche giugno. Siamo subito a marzo, aprile e maggio. Praticamente tra 3 mesi, Antonio, poi a giugno fai la visita. Se non è urgente, altrimenti quando fai queste impegnative dal tuo medico che te le richiede, ti deve mettere l'urgenza. Allora a quel punto gli dà il codice dell'urgenza al TUC in fase di prenotazione e dovrebbero farcela prima. Il problema è che magari per farla prima ti mandano da altre parti, capito? No. Avanti, che è? Devo ancora accendere lì da giallo. Non ho capito nulla, no, basta l'ecco un po'. L'ho piazzato quell'affare, mi Carlo, stamattina. Mi ha allungato il cavo e gli ho messo quella sturia là. E beh, funziona, riceve bene. E beh, te credo. Bella storia. Un'altra volta mi descrivi bene come bisogna fare. Sì, ti dico io, e tu che lo sai fare, sì, ma uno che non l'ha mai fatto è meglio che si metta nelle mani esperte, capito? Se no fai pasticci. Lo so, un amico mio mi ha fatto i complimenti, sembra fatto da negozio, ha detto. L'ho visto, infatti anche io come l'ho visto ho detto, caspita, è proprio roba professionale quella, perfetto sembra. Ascolta, molto spazio ci vuole per stenderlo, poi diciamo i fili che colleghi quanto sono lunghi? 10 metri, un filo ci vuole. Solo uno? Eia, perché addirittura ti puoi fare con una canna da pesca, solo che è alta 10 metri, ti puoi fare la verticale multibanda. Ho capito. Invece per ascolto non è diciamo verticale ma orizzontale, lo puoi mettere? Sì, orizzontale, ti dico un filo di 10 metri e a un capo ci attacchi quello lì, al positivo, poi se li vuoi mettere i radiali lo metti nel nero, no? Ma non ce n'è bisogno, per ascolto non ce n'è bisogno, se lo vuoi mettere lo metti uno o due radiali, gli metti. Ho capito, sì, devo valutare, perché lo spazio l'avrei anche e secondo come lo metto posso camuffarlo e magari sembra un tirante dell'antenna che già ho capito, quindi la gente non ne capisce, quindi pensa che sia un tirante e non ti dice di nulla, capito? Io tanto non chiedo niente, prendo e faccio se devo fare sul tetto, capito? Basta che non disturba nessuno e non rompo niente, capito? Nessuno mi dice niente. Infatti, l'attacchi sotto il palo dell'antenna e quella scatola la metti in basso. Ascolta, e la scatolina come l'hai fissata? Con fascette, Natali? Allora, gli ho fatto due buchi, gli ho fatto anche sotto il buco per la condensa, così gli ho messo il grasso dove ci sono quelle filettature e quindi è di lusso adesso. Già lo credo. Avanti, Antonello. Cos'hai fatto un dipolo, Natali? È un ballum, ho fatto per il dipolo col toroide, no? Io ho capito. Cappa, già va bene. Una volta che c'è quello, poi stendi il filo e già funziona, a voglia. Poi l'attacchi a un accordatore, ci puoi anche parlare, va da tutte le parti quello. Già lo so, già li ho visti, su YouTube ci sono, come costruirli, ci sono gli schemi, per qualsiasi tipo di frequenza. E chi c'è sul 10? Prima ho sentito qualcuno con l'eco, ma non ho capito niente neanche io, qualcuno è entrato, però aveva l'eco troppo forte. Sì, voleva spostarsi dalla linea gialla. Non lo so chi era, o era Tonino, non lo so, o qualche eco potente era però, quindi non si è capito bene. Attenzione, canale 10, allontanarsi dalla linea gialla. chiami il nome di lui. Allora, quel capatazzi, Enni. Buonasera. Buonasera anche a lei, signor Tonino. Ciao Carlè, come ascolti in radio? La radio molto buona, però prima l'eco era troppo forte. Perché mi piace leccare. L'eco. Sicuro pompuzze le nocche. Sì, c'è Antonello, Natalino e io per adesso. E adesso sei entrato tu e siamo in tre. Ciao Tony, poco fa non ho capito niente di quello che avevi letto, cioè l'eco troppo ripetitivo. E a me piace leccare, capito? Come ti arriva Antonella? Sbarrando. Adesso come ti arriva Antonella? 1, 2, 3, prova di modulazione. 9 più 10, tondo. E così è senza tondo? Sì, senza tondo. 8,5 con picche 9,10. Però la radio è bella, dai. Sì, la radio è bella, lo stesso. Andrà bene. Sì, la linea gialla. Data lì. Poi, con questa voce mascola, mi hai fatto quasi sordo poco fa. Addirittura, raga. Allora fa una cosa, guarda, ti do un consiglio, Natalia. Mangiati una frittella con la crema che ti passa. Ecco. E allora, Carré? E allora, eccoci qua, facendo quattro chiacchiere. Niente, mi per passare un po' il tempo. Quando è che ci vediamo per farci un bel caffè? Io domani ho troppi impegni. Allora, di sera mi devono portare il letto e c'ho da fare. Di mattina sono libero domani, ma devo uscire presto a fare un po' di spesa. Anzi, devo accompagnare prima mia moglie che parte e rientra poi con l'ultimo volo a Roma. Va e torna in giornata, quindi mi devo alzare presto a accompagnare lei. Anche nel giorno di riposo mi tocca andare a cosa all'aeroporto e poi niente, poi ritornando mi faccio la spesa e devo finire un lavoretto in camera di mio figlio e poi non so se mi libero in tarda mattinata. Quindi praticamente quando è che potresti essere libero? Domani tarda mattinata e poi dopo domani di mattina, ma sino a mezzogiorno, perché poi dopo domani c'ho il turno e devo essere al lavoro alle 13, quindi sino a mezzogiorno dopo domani, ma se no lasciamo quando va bene, quando c'ho più orari tardi, che magari ho tutta la mattina libera. Dai, dopo domani mattina facciamo, dai. Dopo domani mattina verso 9:30, va bene. E dovrebbe andare bene. Sì, se è presto così, sì. Data lì, tanto ci sei anche tu qui. Anda bene Meda. Ok. Antone, e l'antenna con i lavori del condominio te la buttano giù o la lasciano lì ferma? No, tu se la buttano giù, spero di no. Anche perché non gli faccio staccare un cazzo io. Prima di tutto, quindi poco la buttare giù c'hanno. Quando fanno il tetto sposto i capi e basta. Di certo non me li faccio tagliare, no? Come è successo a Marco. Allora ho fatto il corso, senti su, il muratore gli ha tagliato il capo, ho dovuto aggiungerlo. Quindi quando salgo loro su, ci salgo anch'io. Gli sposto i cavi, gli rimetto sopra, gli faccio fare il lavoro che devo fare, le gaffe le lascio stare quelle che ci sono, perché non gliele faccio togliere, e poi si arrangiano, non mi interessa niente. Nel punto dove è agganciata l'antenna del baracchino è la parte mia, proprio dove c'è l'appartamento. Se devo staccare, staccano la parabola, che non me ne frega proprio niente. A me mi hanno detto passiamo con la moletta e tagliamo tutto. No, da me non dovrebbero toccarla. Il cavo in facciata, quando arrivano lì, anche io lo scollego e lo tiro su, lo arrotolo, lo metto dentro un bustone e lo metto sul tettuccio. Poi quando finiscono i lavori lo faccio scendere di nuovo e lo ricollego e non dovrei avere molti problemi. No, se lasci tutto fermo così loro è capace che te lo rovinano il cavo con la calce, le tinte, le colle che usano, capito? Non è che stanno lì a guardare le cose, se devono tagliare tagliano, capito? Quindi sta a te controllarlo, io infatti già sono sempre allerta. Adesso se ne sono andati 2 settimane da noi e non ci stanno più venendo, saranno da qualche altro in qualche qualche altro cantiere, capito? Sì, lavorava poca gente, non di che, io ho visto i cantieri, c'è questo qua di fronte dell'albergo, lavoravo in 5, non di più, solo in 5, e lavoro anche la domenica, quindi figurati. Sì, anche i giorni di festa a volte hanno lavorato qua, ce l'hanno chiesto se c'erano problemi, se lavoravano nei festivi, eccetera, ho detto, intanto siamo a casa, noi non è che... basta che te ne vai via e finisci, invece sono inconcludenti, si prendono queste imprese, 1000 lavori e li iniziano tutti e non ne finiscono uno. Antonio, deve fare 110. Sì, devono fare 110 qua, perché dove c'è Giovanna, sta crollando il, come si chiama, avevano fatto il lavoro 5 anni fa, e l'hanno fatto, mamma aveva speso 3.000 euro, e l'hanno fatto una cazzo di cane. E in pratica si è spaccato tutto il cemento dove c'è il terrazzino e anche in altre parti, capito? Quindi fanno tutto nuovo, fanno. Anche io c'è il terrazzino qua, ce l'ho filato, capito? E quindi gli faccio fare tutto nuovo. Poi mi piazzeranno la caldaia, perché la mia caldaia non ha mai funzionato. Da quando sono entrato qua a abitare, figurati. E voi chi lo ride quanto mettete? Nulla metto io né nessuno mette soldi qua, noi abbiamo fatto 110 e non dobbiamo pagare niente. L'unica cosa che devo fare è la successione, è che mi è stata chiesta, capito? E qui devo pagare solamente quello, se no devo pagare tutto di tasca mia. Allora, siccome io sono una persona che non è più CB praticamente, non so, 40 anni, e dove abita ha fatto 110, lui è indipendente, ha speso 10.000 euro lui, tutto il resto lo Stato l'ha messo. La Meloni ha detto del governo praticamente che all'italiana con 110 gli costa 2.000 euro, tu mi dici niente, mi sembra poi strano, poi aggiornati perché ha detto pure i tre giornali, lo ascolto ogni giorno, hanno detto che è tutto bloccato, mio Antonio, molte imprese sono ferme, c'è un casino lì. Lo so che c'è casino, ma il finanziamento l'hanno chiesto alla Swiss, mi ha detto il capocondomino e cominciano a iniziare a marzo, mi ha detto, quindi devo fare questa documentazione qui e presentarla, perché a marzo cominciano i lavori. Poi non lo so, normale noi rientriamo, capito? Perché è stato fatto prima delle, adesso non mi ricordo che data era, l'ho visto mantenere in televisione già, per quelli che hanno fatto entro quella data lì di febbraio, mi sembra che era il 16, al 110 rientrano, invece che chi l'ha fatta dopo ce l'ha al 90, capito? Allora io ho sentito ciò che hanno detto, che il governo che c'era prima ha buttato troppi miliardi e quelli devono recuperarli, devono entrare in cassa dello Stato, nel PNRR, quindi bisogna stare attenti perché molte imprese hanno iniziato e hanno bloccato sia ponteggio che tutto quanto, e questo si vede anche a Sassari, non solo in televisione. E poi il governo cerca sempre di recuperare i soldi e non buttarli, troppi soldi hanno buttato, sono centinaia di miliardi, non sono mica due spiccioli, un casino di imprese eccetera eccetera, io che il sindacato va a dire ci saranno molte imprese che vanno a zero, disoccupati, operai, no, ce ne frega niente, non si possono buttare soldi così, dai. E poi chi ci piangiamo sempre noi, ma che c'era Biglielucci. Natalino, ripeti. Sì, infatti è così, hanno bloccato la sessione dei crediti. Vabbè. Vedi, le centro storico non lo fanno, sono le palazze grandi, capito? Chissà perché. Eppure l'avrei fatto più al centro turco che altro, perché stanno cadendo quei palazzi. Sì, già lo so, ma non i vadi. E allora Carletto, tu che mi dici in merito? Guarda, in merito sì, ho seguito la situazione. Il 110 l'hanno bloccato con tanto di decreto legge, quindi non verranno più fatte le cessioni del credito nello sconto in fattura, per cui finite le risorse. È vero quello che hai detto, a ogni italiano questo bonus 110 dalla nascita, da quando un italiano nasce, gli costerà 2000 euro in più oltre il debito pubblico che avevamo prima. Pro capite avevamo un debito pubblico di 25.000 euro a testa, adesso è aumentato a 27.000, capito, con questi 2.000 euro in più delle... Quindi era, e io sono favorevole da bloccare, io non concepivo neanche che l'avessero fatto da prima. Noi l'abbiamo già avviato prima, anche Antonello, se l'amministratore ha fatto la certificazione al comune dell'inizio cantiere lavori eccetera, ha presentato tutte le certificazioni, lo Stato ha detto che garantisce che quello che è iniziato andrà finito, cioè in questi casi la cessione del credito viene fatta dalle banche, lo sconto in fattura chi l'ha chiesto verrà fatto ugualmente, tutte le altre forme di bonus non sono terminate, solo che quelle sono con le detrazioni, nel senso tutti vuoi fare il bonus facciate perché c'hai da rifatti i terrazzini, bene, ti trovi l'impresario, ti fa il preventivo, ti paghi i soldi tu e poi avrai le detrazioni per 10 anni nella dichiarazione dei redditi, come era prima praticamente, così non costa la collettività, capito? Allora Carlo, l'amico mio, l'avevo finito se no 3 mesi fa per il lavoro a lui, la facciata è dietro e davanti, perché è attaccato al palazzo, la portella tra lui e tutti i dipendenti, abita le punti. Ha speso 10.000 euro di tasca sua, tutto il resto l'ha messo il governo. Tant'è vero, quando lo stavano facendo, io andavo spesso, vado spesso a trovarlo, è che il polistirolo ormai 10-12 centimetri, lui ci chiama polistirolo, quindi. E poi la Meloni ha sentito al telegiornale che dice un italiano gli costa soltanto 2.000 euro, cioè ma che cosa italiano la mette? E Antonio dice non mettiamo niente, mi sembra strano, questo mi giunge molto strano. Non è così macca che a Meloni a dire una cosa del genere, che gli costa 2.000 euro invece non è vero niente. Poi, non lo so, io senso l'avrei abolito perché non si possono buttare migliaia e migliaia di miliardi quando appunto c'è gente che sta morendo di fame con una misera pensione, cioè addirittura di 3, 4, 500 euro, ma stiamo scherzando, no, è tutto sbagliato, sono soldi buttati, come altri soldi che non voglio citare adesso, altre cose. Devo stare attenti, io non mi sento buttato, perché se inizio un lavoro e poi blocco i lavori è un casino, ti trovi sto ponteggio che sei in casa tua quando apri la finestra si ingabbia con questo ponteggio mentre le scatole, perché senza questo, mi ricordo, questo 110 ancora non c'era, anni fa io sono andato a fare dei lavori a una bidella che lavorava nelle scuole e dovevamo fare la facciata, la pittura eccetera, però lei ci aveva questi ponteggio che dice non posso neanche stare la roba, siamo in galera, guarda, apriva la finestra, la terrazzina, un casino. Quindi non lo so, io vedo molti palazzi, c'è lo so prodigio e non sto facendo niente, sono bloccati. Il casino è quello, che tu sei incasinato in casa tua, è più brutto. Ho capito, aspetta, forse c'è qualcuno che vuole entrare sotto, avanti sul 10. No, c'è una portante a fondo scala qui da me, non è, è qualcuno che sta mettendo di proposito la portante. Ciao a tutti, ciao Tonino, Natalino, Carlo e anche Antonello. E anche il portantista saluto, vai, per l'educazione. Ciao Giulio, ma io non lo so, l'importante non l'ho, fino adesso non l'ho vista, poi stavo parlando, se non l'ho messa a me non lo so. Tutto qua, poi se mi copre, pazienza, spiego il baracchino e mi guardo la televisione, non ho problemi, capito? Non mi devo fare San Gumaro per il baracchino, ma avanti Carlo. Break. Avanti break. Buonasera a tutti, doppio rum. Ciao Gianni, buonasera. No Tony, non ti copriva, no, passavi tu, però si sentiva sotto che c'era qualcuno. Buonasera anche a Giulio che è entrato. Niente, c'è Natalino e Antonello da una mezz'ora circa, dai. Magari è qualcuno che voleva intervenire, eccetera, non lo so. Se vuole entrare, il benvenuto sul 10. Avanti Giulio. Ok, ciao Carlo, stavo ascoltando, ho registrato 4-5 volte mentre parlava Tonino, che ha messo la portante a fondo scala qui, 9.30 più o meno, all'incirca, vabbè, il segnale è dato con lei e poi quanto sia preciso questo non lo so, però so solo che si interrompeva la modulazione di Tonino, proprio non spariva completamente per la portante. Va bene, dai, speriamo che non continui, se non pazienza io chiudo e non se ne parla più. Avanti ancora Tonici. E io faccio Quarix, devo fare cosa? Ok, vi ascolto. E io, ciao Tonici, buon Quarix, alle prossime. Ciao Giulio, ben sentito, riprenditela. Ok, ciao Tony, d'accordo Tony, buon Quarix allora, dai. Ci sentiamo eventualmente un altro momento, vai Natali. E capo, anch'io faccio Quarix che devo cenare, quindi mi devo preparare la roba, dai. Vi ascolto comunque, saluto chi è entrato, ci sentiamo alle prossime, o più tardi se coincide. Scusate, Giulio, tra caso noi già ci sentiamo al telefono, non c'è problema. Ok, continuate, ciao a tutti. Ok, Tony, d'accordo, ce l'ho vicino il telefono, non è un problema. Ci sentiamo, ciao, ciao. Ciao Natalino, allora, grazie per la chiacchieratina, anche per le quattro chiacchiere che ho sentito da te, ma vi stavo ascoltando ad ogni modo, dai, pazienza, dai. Speriamo che l'amicono continui a mettere portante. Avanti Gianni, buonasera. Buonasera anche a te Giulio, ho sentito. Cose importanti, l'altro giorno stavano mettendo a me, l'hanno messo a te, insomma, mica anche uno sempre chi va a mettere a portante, vabbè. Che gusto ci prendono a fare certe cose, non lo so, quando c'è un questo tranquillo. Avanti caro. Vabbè dai, anche quelli ci vogliono, se no non avremo di che ridire. Pazienza, poi tanto io sono sicuro che non si diverte neanche, capito, chi fa queste cose, lo fa per dar fastidio e magari gli va di farlo, però poi non credo che duri più di tanto, perché poi alla fine non hai niente da fare quello, e noi continuiamo per te a parlare, e mi sa che la portante difficilmente passa, insomma, le stazioni forti, per cui io Tonino continuavo a sentirlo e anche Giulio lo sento comunque, perlomeno a me diciamo mi risulta che c'è la portante, la sento, ma passa comunque Giulio tranquillamente, Natalino passa e anche Antonello, Gianni non se ne parli, per cui evviva le portanti, riprendi Gianni. E anche l'altro giorno ero in macchina e mi stavano mettendo la portante a me, capito? E da alcuni passavo e da altri no, perché è normale quando sei in macchina che se non è che ti sposti e vai vicino, allora è un'altra cosa. E vabbè, è un gusto strano, capito? Consuma la luce per niente. E vabbè, non è giù riprendi perché è nemmeno di soddisfazione da parte sua, perché la soddisfazione cosa può essere mettere la portante, una soddisfazione certosina sicuramente, per cui vabbè, comunque faccia come crede.